C'era una volta. La vita non è, non è, non è una favola. C'è chi promette soldi con la sua politica, tirando in ballo anche le leggi della fisica. Chi vende fumo alzando nuvole di polvere, salvaguardando solamente la sua immagine. Ma la vita non è, non è, non è una favola. C'è chi ostenta il suo potere con la mimica, chi ci illude indossa maschere di plastica, chi muove i fili con la scusa della logica. Ma la minestra sembra sempre un po' la solita. E la vita non è, non è, non è una favola. Prega in silenzio e poi uccide in forma anonima. Il suo sorriso è finto come le sue macchine. Strappa i sogni con chilometri di chiacchiere. E la vita non è, non è, non è una favola. Abbiamo capito di essere spessi un po' colpevoli. Ci siamo fidati di che stronzo con i deboli. Sulla poltrona per suo culo ci sta comodo. Ma il rock and roll è come un pugno nello stomaco. Sai, la vita non è, non è, non è una favola. Alla prossima fermata, scendi amico, fai come vuoi. Sei conciato proprio male, col veleno brinderai. Noi restiamo qui a cantare, senza furbi e senza eroi. Con la bici sotto braccio, il ritornello è sempre lui. Hanno detto che la terra è un posto libero, ma...